Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La macchina appartiene a un suo cugino, studente a Londra, che gli ha comprato un vecchio taxi Ambassador 8 posti. Vuole portarlo in Persia e cerca passeggeri per condividere le spese. Accettiamo in 4. Appuntamento a Istanbul, il 2 di agosto. Ciao, sono Marina, vivo ad Abbiategrasso, ho 64 anni, sono felicemente pensionata da qualche anno, amo viaggiare e la storia che vi racconteranno adesso è la mia. Precisissima Marina nelle sue spiegazioni, anche se è in pensione, è una che ci tiene a far sapere quelle cose esattamente come stanno, che la storia che racconteremo a breve è esattamente la sua e non quella di un altro. E la storia che vi raccontiamo oggi, secondo me, è anche giusta proprio come da un punto di vista temporale sentirla oggi. Oggi è il 31 di marzo e tra un po' arriva il mese di aprile, tra un po' vuol dire domani arriva il mese di aprile. E più o meno al mese di aprile le famiglie, le coppie o anche le persone da sole, che di solito hanno le vacanze ad agosto o a luglio, cominciano a fare delle ricerchine, no? Tipo, ma dove andiamo quest'estate? Prendendola alla lunga. Oddio, mio padre anni fa, a gennaio, aveva prenotato il traghetto e residenza all'Isola d'Elba, però erano veramente tanti anni fa e adesso probabilmente non lo fa neanche più. Anzi, no, non è vero, hanno già prenotato ovviamente da mo' l'albergo, sempre per l'Isola d'Elba, spero non il traghetto. Papà, il traghetto dai, ce n'è uno ogni mezz'ora, quando arrivi arrivi. Invece ci sono altre persone che cominciano a curiosare in giro e più o meno si dividono in due tipologie: quelli che vogliono andare in un posto e stare lì, che so io, che sia mare o che sia montagna, e quelli che invece vogliono andare a fare un viaggio, quindi prendono un biglietto aereo e poi da lì si spostano, magari prendono l'andata e il ritorno, magari prendono una notte d'albergo quando arrivi e poi vada come vada, o un'automobile addirittura. Allora, lo dico perché più o meno è cominciata ieri sera questa specie di bagarre a casa mia con la mia ragazza riguardo al ma cosa facciamo? Stiamo fermi in quelle 2 settimane? Stiamo fermi o facciamo un viaggio? E lì comincia una piccola lotta intestina che insomma è una fortuna poter fare, perché si ha il tempo evidentemente e la possibilità. La storia di Marina di oggi sta chiaramente tutta da una parte, anzi sta delle due che vi ho detto, sta ancora più in là, proprio è quasi extraparlamentare rispetto al quadro che vi ho proposto, perché Marina parte per un viaggio, sono gli anni 70, quindi a detta di tutti, poi quelli che ci sono nati come me di fatto non li hanno visti, cioè ci sono stati immersi ma non li hanno vissuti, perché io avevo 5 anni quando è arrivato il 1980. Però chiunque racconti degli anni 70 li racconta così. Non è la prima volta, abbiamo raccontato anche durante il periodo in cui raccontavamo viaggi di quel nostro ascoltatore che adesso è un rappresentante di giocattoli, che era andato in Africa con un furgone Volkswagen e lo raccontava come se fosse la cosa più semplice, più normale della terra. Oggi invece va in giro con uno scooter a 3 ruote, giustamente, perché i tempi passano per tutti. Ma se io dicessi ai miei genitori, anche adesso che ho quasi 40 anni, ma vorremmo andare in Africa con un furgone, quantomeno mi guarderebbero male, ma semplicemente perché la mia famiglia non è abituata a fare queste cose. 349-238-6666. Oggi parliamo, anche se non sembra, anche rispetto a quello che vi raccontavo non sembra, oggi parliamo di viaggi in taxi, perché sì, uno di quei pezzi di strada che ci racconterà Marina nella sua storia li ha fatti con un taxi, non a pagamento, ma come avete sentito semplicemente in prestito, preso in prestito da un tizio che lo sta portando in Persia e loro fanno da equipaggio. Paola, il viaggio in taxi più assurdo che ho fatto: eravamo ad Ushuaia, dovevamo raggiungere l'aeroporto. L'unico taxi disponibile era una specie di furgone per gli animali e le persone. Ci caricò nel cassone e viaggiamo per ore insieme a un pastore con il suo cane e il suo asino. Ecco, più o meno così. 349-238-6666. Scusatemi Paolo, io sono in taxi in questo momento e ti stiamo ascoltando insieme al tassista. Se leggi questo messaggio diventerà delirante. Sembra un messaggio che si è autodistrutto. Ah, questo viaggio voleva dire probabilmente. Questo viaggio diventerà delirante. 349-238-6666. Ci sono i taxi, c'è Istanbul, c'è la Persia. Questa è la storia di Marina. Mi chiamo Marina, ho 64 anni e il viaggio che vi racconto l'ho fatto più di 40 anni fa. Di recente ho letto su un muro di Venezia una scritta che diceva così: la partenza non è che il primo passo del viaggio di ritorno verso casa. Immagino che chi lo ha scritto ritenga di essere un grande saggio. Per me è un deficiente. Viaggiare è fantastico se sei curioso e non temi l'incontro con mondi diversi dal tuo? Di viaggi ne ho fatti tanti, non li so contare, tanti. Dove? In tanti paesi del mondo, non, un po' in Europa, abbastanza in Asia e un po' in Centro e Sud America, anche in Africa. Estate 1972, l'Iran si chiama ancora Persia e regna lo Shah. La rivoluzione avverrà 7 anni dopo. Kamran, un amico, cerca 4-5 amici per un viaggio in auto, comodo e poco costoso, da Milano a Teheran, dove vive la sua famiglia. La macchina appartiene a un suo cugino, studente a Londra, che gli ha comprato un vecchio taxi Ambassador 8 posti. Vuole portarlo in Persia e cerca passeggeri per condividere le spese. Accettiamo in 4. Appuntamento a Istanbul il 2 di agosto, al Pudding Shop sulla Divan Yolu, a metà strada tra la Moschea Blu e Santa Sofia, punto di incontro ben noto a tutti i viaggiatori dell'epoca. A Istanbul ci arriviamo ognuno a modo proprio, in aereo, in nave, in autostop. Istanbul è una delle città delle mille e una notte. Il Gran Bazar è ancora un vero mercato asiatico, dove si vendono spezie, gioielli, stoffe pregiate, ma anche capre, pesce, verdure e oggetti per la vita quotidiana. Arriviamo. Il 2 di agosto il taxi non arriva. Neppure il 3 e neppure il 4. I telefonini non esistono. Non abbiamo modo di sapere dove sia la nostra auto. Decidiamo allora di aspettare ancora un giorno. Se non arrivano, visiteremo la Turchia, paese che non conosciamo. E invece il 5 agosto, finalmente, ecco i cugini, insieme a Jeff, un neozelandese raccolto a Monaco di Baviera che sta facendo il giro del mondo. Parla un inglese tanto incomprensibile che anche il cugino londinese gli fa spesso ripetere le frasi. Puzza di fumo e di pesce. Il fumo si capisce, ha sempre uno spinello acceso. Per l'olezzo di pesce, invece, è che gli piacciono le sardine. Sono un cibo poco costoso e da quando è partito da casa, 6 mesi fa, le ha mangiate praticamente tutti i giorni. Ci imbarchiamo sul ferry per Trabzon. Percorriamo i 500 km tra Trabzon e la frontiera in poco più di 2 giorni. Poiché sul ferry ci hanno raccontato di numerose rapine subite dai viaggiatori lungo la strada che porta al confine, la prima notte andiamo a chiedere ospitalità per dormire a un posto di polizia che incontriamo poco dopo il tramonto. Non è facile far capire al piantone di turno che cosa vogliamo. Lui però manda a chiamare un amico che parla un po' di tedesco e di farsi, e alla fine ci intendiamo. Una notte d'inferno. Sì, siamo al sicuro dai rapinatori, ma ci sono miliardi di zanzare. Ed è troppo caldo per dormire dentro i nostri pesantissimi sacchi a pelo militari. Al mattino abbiamo braccia e volto gonfi per le punture e siamo stravolti per la stanchezza. La sera successiva non troviamo nessun ricovero e così dormiamo in un prato poco fuori la strada. Noi due ragazze in mezzo e i 5 ragazzi armati di coltellini svizzeri ci difendono dormendo profondamente, anche grazie a parecchio fumo e liquore all'anice. Però niente zanzare. Siamo alla frontiera, nessuna difficoltà per uscire dalla Turchia. Poi un centinaio di metri di terra di nessuno e il posto d'ingresso per la Persia. Nessun problema con i passaporti, il problema è con la macchina. Per portare il taxi in Persia bisogna versare una tassa di importazione pari a 3 o 4 volte il prezzo pagato per acquistarlo. Comincia una lunghissima e inconcludente trattativa, alla fine della quale l'auto rimarrà lì, nella terra di nessuno. Noi intanto ripartiamo a bordo di un autobus tedesco acquistato a Colonia da un autista pakistano che lo sta portando al suo paese per avviare un'attività commerciale. Per un modico prezzo promette che ci porterà rapidamente a Teheran. L'autobus ogni pochi chilometri ha qualche guaio. Gli bolle l'acqua, la pressione dei freni è troppo bassa, si buca il radiatore. Ci mettiamo 4 giorni a fare 800 chilometri. Che cosa mi ha colpito di più nel viaggio? Ma è stato tutto straordinario, è stato tutto strano. Era tutto inatteso, non sapevamo bene dove stavamo andando. O meglio sì, avevamo una meta che era Teheran, ma quello che c'era in mezzo era tutta sorpresa. Bellissimi paesaggi dal confine turco andando verso Teheran, perché parti da una zona abbastanza alta, scendi a un deserto pietroso, paesaggi inattesi. I finestrini dell'autobus che viene dal nord Europa ovviamente sono sigillati e nel deserto dopo Tabriz fa un caldo tremendo, ma il viaggio è divertentissimo. A ogni fermata qualcuno ci invita a visitare la sua casa, ci offrono tè, caffè, pistacchi e dolcetti, ci mostrano con orgoglio i loro elettrodomestici. Quando alla fine arriviamo in città quasi ci spiace lasciare l'autobus. A Teheran le nostre strade si dividono. Io e un amico decidiamo di visitare alcuni luoghi esotici e storici importanti della Persia, Persepoli, Isfahan e Shiraz. E poi torniamo verso l'Italia. Grazie a un numero esorbitante di passaggi, riattraversiamo la Turchia, la Grecia, la Jugoslavia e la pianura padana. Memorabile è rimasto un tratto in Grecia nel rimorchio di un trattore che stava raccogliendo angurie, con l'autista che continuava a tagliare per noi delle fantastiche fette perfettamente mature. Certo, andare in Persia con un taxi londinese a 8 posti non capita tutti i giorni. E invidio molto Marina, perché questa è una di quelle avventure che davvero puoi raccontare agli amici o ai nipoti, oppure a un programma radiofonico. Io non frequento molto i taxi, non per scelta ideologica, solo perché giro in Vespa qui per la mia città, ci metto meno tempo e risparmio un po' di soldi. Il mio viaggio in taxi assurdo però ce l'ho avuto, e non è stato in Persia. È stato in Corsica, durante un'estate direi poco fortunata. Avevo 17 anni e non so come avevo convinto i miei genitori a farmi partire con altri 3 amici, con 2 cinquantini, un 50 Malaguti e un Sisella Lunga per una settimana di vacanza. Loro pensavano che andassimo a piedi e in fondo non era proprio così sbagliata come convinzione, dal momento che appena arrivati a Bastia il 50 ci molla e muore. Passiamo giorni in città mentre un meccanico che sbuffa e dice qualcosa a metà tra il sardo e il francese lo prende a martellate. Riparte. Ci fa pagare 25.000 lire, circa 20 euro di oggi, che comunque è una cifra accettabile anche per noi, che all'epoca abbiamo 17 anni. Scendiamo coi motorini verso Bonifacio e poi iniziamo a risalire dall'altra parte, sulla costa occidentale. Un giorno raggiungiamo la mitica spiaggia della Palombaggia, di cui sentiamo parlare da anni. Bisogna fare qualcosa tipo 7 km di sterrato. Noi ci proviamo, ma i motorini decidono di abbandonarci, prima uno bucando una gomma e poi l'altro grippando completamente il motore. Rimaniamo in quel campeggio sulla spiaggia per circa 4 giorni e poi arriva il momento di tornare. I proprietari dei 2 motorini decidono di prendersela con comodo, mentre io e l'altro passeggero dobbiamo per forza prendere il traghetto di ritorno, da lì a un giorno. Troviamo passaggi autostop fino a Macinaggio, a nord, in cima al dito della Corsica. E poi, da lì, quando mancano 3 ore al traghetto, tocca prendere un taxi. È uno di quei taxi del paese, in cui, che so, dei signori prendono un'auto e poi si mettono a fare servizio verso porti e aeroporti. Parte, va come un treno. Dopo 10 minuti si ferma per fare benzina. Rimaniamo in auto, lui fa qualcosa tipo 4 litri di benzina e ripartiamo. La radio suona una musica assurda, tipo un neck francese, ma molto molto peggio. Inizia a fumare una sigaretta via l'altra. Dopo 20 minuti si ferma nuovamente per comprare le sigarette. E lì compiamo un errore gravissimo. Io e il mio amico scendiamo dalla macchina per andare in bagno. E quando usciamo, lui è sparito. Non l'abbiamo pagato, è vero, ma siamo in un punto indistinto della Corsica e il nostro traghetto parte tra meno di un'ora. Saliamo su un autobus che non so come si ferma a pochi metri da noi, mentre cerchiamo di capire perché quel signore in taxi se ne sia andato lasciandoci da un tabaccaio vicino a Macinaggio, arriviamo al porto, mentre il traghetto sta partendo. Ci ho impiegato 10 anni a riprendere un taxi, ma d'ora in avanti solo quelli con la scritta sopra. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. un bosco, Marina, nella foto che ci ha mandato e che trovate come sempre, come tutti i giorni, sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui. Non è il fatto che sei in un bosco ad essere strano, è il fatto che si trova, ripeto, in una specie di bosco con un po' di persone intorno, ma soprattutto vestita con una canottiera rosa, anzi direi una canottiera fucsia, degli occhiali da sole, e tiene nelle mani da una parte un bicchierino di plastica, dall'altra una banana e credo uno snack o un pacchetto di sigarette. Pronto, Marina? No, un pacchetto di sigarette no. Ok, benissimo, Matteo. Chiariamolo subito. È che, aspetta che non riesco, devo ingrandirla un po'. Ah no, è uno snack, è una merendina. Snack. Ero in Cile, è capitata lì dove facevano un running trail, il primo running trail della loro storia, e allora già che c'ero... Hai detto, perché farselo mancare? Sì, tanto, il tempo c'era. Quanto era lungo il running trail? Erano 12 km. Ah, ok. Nel bosco, si arrivava in montagna, una cosa gradevole. Marina, non sei mai ferma? No, neanche adesso, guarda. Dove sto camminando in campagna per tenermi in allenamento. Dove ti trovi esattamente? Sono ad Abbiategrasso, in campagna, andando verso il Ticino. Tu sei di Abbiategrasso? Abito ad Abbiategrasso, ma diciamo che ormai sì, sono qui da tanti anni. Che lavoro fai? Adesso sono felicemente pensionata. Ok. Prima facevi invece... Prima facevo il chimico in una clinica del lavoro. Ok, quindi sei una chimica di fatto. La chimica è brutta, la chimica è una scienza. Sono un dottore in chimica. No, ok, è che mi viene subito in mente un personaggio di Breaking Bad, ovviamente, quando penso a un chimico. Quindi stai passeggiando lungo il Ticino, è zona di Parco del Ticino, come dalle mie parti. Il Parco del Ticino sì, arriva sì, da là, sì, no? Arriva da, sì. Dalle parti mie, arriva fino... Il partimento nel Novarese. Sei, io sono Romentino, vicino a Trecate. Allora, tu sei sull'altra sponda. Io sponda est e tu sponda ovest. Certo, perché tu sei sponda lombarda, io sono sponda Piemonte ancora. Sì. Vabbè, dopo esserci fatti un po' di fatti nostri, un po' di geografia, Marina, io vorrei sapere tutti i posti in cui tu sei stata, perché una che mi dice che... Ah, ok, è più facile. Lo immagino, perché una che è stata ha raggiunto la Persia prima con un taxi londinese, poi con un autobus preso da un pakistano che l'ha comprato in Germania e va in Pakistan, uno ci si aspetta che, diciamo, qualche avventura tu te la sia vissuta. Beh, ho girato abbastanza. Diciamo che tra il 70-75, sì. Vabbè, ho girato abbastanza, ero molto giovane. Poi ho messo famiglia. Siamo stati, non dico fermi, perché... Ti stanno investendo? Marina, cosa c'è? Un elicottero? Abbiamo girato a Cotoraggio e poi da una decina d'anni a questa parte si è ripreso a fare qualcosa di più. Ma quindi hai fatto famiglia, hai anche dei figli? Beh sì, ho figli che ormai hanno la tua età. Che ti portavi dietro? Io sono giovanissimo, insomma. Sì, figli con i quali abbiamo girato l'Europa, il bacino del Mediterraneo. Siamo anche stati in India e in Messico. Insomma, avevi qualcosa dell'hippie? Eh? Avevi qualcosa del mondo hippie di quell'epoca? No, assolutamente no. Assolutamente no. Ma no. Semplicemente ti piaceva. La chimica è una persona assolutamente ordinata. No, no, no. Mai fumato neanche una sigaretta. Erano bevuto sempre con estrema moderazione. No. Erano i tuoi sì, compagni di viaggio. I zoccoli che all'epoca i ragazzi portavano, quelli sì. Però diciamo, quello era l'unico segno distintivo. Direi di sì, le gonnellone a fiori, ma insomma, è la moda. Sei in partenza adesso? Stai andando da qualche parte? No, in questo momento no. Però beh, il prossimo viaggio? Vero. Comunque sono tornata di recente da Terra del Fuoco e Patagonia e tra un paio di settimane vado una decina di giorni in Senegal. Però ah, ti okay. Dicevo di no, perché 10 giorni... Ah, in 10 giorni chissà cosa succede. Magari te ne... un viaggio, non si fa in tempo a capire. Immagino. Marina, ti ringrazio molto per la chiacchierata, la storia. Ti lascio tornare alla tua passeggiata. Va bene, ti ringrazio. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666. Mai dire a un dottore di chimica che è un hippie, perché potrebbe farvi saltare in aria. Boom! In pochissimi secondi. 349-238-6666. Si parlava di viaggi in taxi, in qualche modo, viaggi assurdi. Il mio viaggio in taxi più assurdo è finito con un coccio tra il mio taxi e un'ambulanza. E il tassista voleva pure avere ragione. Un coccio cos'è? Un incidente, infatti. Serena, io sono una tassista e ogni mio viaggio sembra assurdo, perché avere una persona diversa a bordo ogni volta è come vivere vite sempre diverse. Un po' una sorta di Voi Siete Qui dei taxi, Serena. una sorta di social network. Vabbè, basta, dai. Altrimenti esagero proprio. Abbiamo finito anche oggi. Io ringrazio tutti quelli che hanno fatto possibile questa puntata, che l'hanno resa possibile. Scaricate i podcast, raccontate storie. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Marina. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Salve, sono Tiziana e vivo a Negrari in Valpolicella. La storia di domani è la mia e parla di scontri che si trasformano in incontri. Questa è la mia storia ed io sono qui.